Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Inverno 1938. Ci troviamo presso i New Jersey Palisades. Si tratta di una fila di magnifiche scogliere ricoperte di verde che si tuffano nel Hudson River, poco a sud di New York. Nelle giornate terse, dagli incantevoli sentieri che ne percorrono la sommità, è possibile scorgere lo skyline dei grattacieli di Manhattan. Qui, nei mesi freddi del 38, passeggiano serenamente Edward Kushner, uno dei più noti matematici americani, e il suo delizioso nipotino Milton. La scena si può facilmente immaginare, nonno e nipote mano nella mano. Il nonno racconta storie che affascinano il bambino. A un certo punto, Kushner racconta al piccolo Milton di una sua ricerca matematica, una ricerca intorno a un numero grandissimo, uno seguito da 100 zeri. Kushner chiede al bambino: «Mi aiuti a trovare un nome per questo numero, il più grande di tutti i numeri?» Il bambino risponde giocoso: «Google». C'è per esempio anche un uso, di cui parleremo tra poco a tavola, di Google o di altri strumenti che sono offerti dal mondo di Internet. C'è chi lo pronuncia male e chi lo pronuncia bene. Sicuramente però oggi quasi nessuno sembra poterne fare a meno. Google, il motore di ricerca più usato al mondo, una vera e propria guida attraverso il vastissimo mare della rete. Destini incrociati. 35.800 risultati in 0,13 secondi, perfettamente indicizzati secondo il numero di contatti giornalieri. Google funziona proprio così. In una frazione di secondo riesce a individuare nel World Wide Web tutte le pagine in qualche modo connesse con le parole che state cercando e con altrettanta velocità ve le ordina secondo una serie di criteri molto precisi, oggi configurabili dall'internauta che si accinge a fare la ricerca. A definire uno strumento tanto prodigioso ci sarebbe quindi una parola senza senso, un suono giocoso prodotto da un bambino. Quasi come Dada, che Duchamp e Zara, ovvero i dadaisti, avevano preso negli anni 20 come simbolo della loro rivoluzione artistica. Google racchiude una rivoluzione altrettanto importante e forse più radicale: la liberazione della rete. Santa Clara, il cuore della Silicon Valley. Il prestigioso e gigantesco Convention Center ospita tra il 7 e l'11 aprile 1997 la sesta World Wide Web Conference, una convention fondamentale per il mondo di Internet e del web. La conferenza raduna ricercatori, scienziati, informatici, matematici da tutto il mondo, accomunati dall'ambito di ricerca, il web, la rete, Internet. Qui si presentano le idee che dovrebbero o potrebbero cambiare e migliorare una delle innovazioni tecnologiche più radicalmente sociali e innovative degli ultimi anni. La nostra storia di oggi ruota proprio intorno a quella conferenza e a un incontro particolare che avviene durante quei frenetici giorni. Andiamo a conoscerne i tre protagonisti. Il primo è americano. Si chiama Larry Page. Larry Page. Lawrence Edward Page, oggi noto in tutto il mondo semplicemente come Larry Page, nasce nel 1973 a East Lansing, nel Michigan, in una famiglia di origini ebraiche. Che la sua vita avrebbe avuto qualcosa a che fare coi computer si capisce dando un'occhiata rapida al contesto in cui Larry cresce. Il padre è professore di informatica alla Michigan State University. La madre, presso la stessa università, dirige un master in programmazione ed è consulente di alcune grosse aziende per la costruzione di imponenti database. Casa mia era veramente impressionante da questo punto di vista. Ricordo un grande disordine, ricordo riviste di informatica sparse per tutta la casa. Insomma, impossibile che io non mi interessassi ai computer, no? Larry Page frequenta la East Lansing High School e si diploma nel 1991 per poi laurearsi in ingegneria informatica alla University of Michigan con il massimo dei voti e una menzione d'onore. Durante il mio percorso scolastico sono sempre stato affascinato anche dall'idea di inventare qualcosa. Mi affascinava la tecnologia, ma sono stato attratto fin da quando avevo 12 anni anche dal business. Fin da quell'età ero sicuro che prima o poi avrei creato la mia società. Suo fratello maggiore ricorda che Larry, quando era adolescente, era solito smontare ogni cosa presente in casa per capire da vicino come funzionasse. La leggenda vuole che Larry abbia inventato all'inizio degli anni 90 una stampante utilizzando i mattoncini del Lego. La vera svolta, però, per Larry Page arriva quando, dopo l'università, riesce a ottenere una borsa di studio per un dottorato di ricerca in scienze informatiche presso la Stanford University, una delle più prestigiose università californiane, proprio a due passi da Santa Clara, la cittadina attorno a cui ruota la nostra storia. Qui Larry individua l'argomento della sua ricerca: le proprietà matematiche del web. Sembrerebbe un argomento piuttosto ostico. In realtà, la considerazione che spinge Page verso quest'ambito è assai popolare. Internet, infatti, è secondo Page l'argomento tecnologico più sociale e meno di nicchia che ci sia. Il giovane ricercatore ne intuisce le possibilità e capisce che applicando gli studi matematici alla rete è possibile andare nella direzione di una semplificazione del suo utilizzo da parte degli utenti. La suggestione da cui parte la ricerca di Page è quella di immaginare la rete come un grafico in cui ogni punto si trovi strettamente collegato all'altro. Riflettevo su questo concetto. Se in un ipotetico diagramma tutte le pagine sono direttamente o indirettamente collegate tra loro, deve esistere un sistema per catalogare e inventariarle a partire da una determinata parola. Il mio capo, Terry Winograd, mi ha incoraggiato. Il mio obiettivo non era solo quello di catalogarle, ma anche di ordinarle in base ai backlink, cioè ai collegamenti ipertestuali che da altre pagine web puntano ad una determinata pagina. Più backlink ci sono, più un sito è visibile. Nello sviluppo di questa ricerca, Larry Page fa ben presto un incontro che si rivelerà decisivo. Si tratta di un suo coetaneo e compagno di dottorato di origine russa, subito affascinato dalle sue ricerche. È il nostro secondo personaggio di oggi e il suo nome è Sergey Brin. Sergey Brin. Sergey Mikhailovich Brin nasce a Mosca il 21 agosto del 1973. Suo padre è docente di matematica all'Università di Mosca, ma la vita per lui è tutt'altro che semplice. Mikhail Brin, questo è il nome del padre di Sergey, è infatti di origini ebraiche. E per quanto una vera e propria politica antisemita non verrà mai esplicitamente avviata dal Partito Comunista Russo, gli apparati di potere dell'Unione Sovietica tendono a discriminare gli individui di origini ebraiche. Mio padre dovette rinunciare al sogno di diventare un astronomo. Si laureò in matematica, ma era sempre piuttosto controllato e sorvegliato. Anche mia madre era ricercatrice all'università. Vivevamo in un appartamento di 30 metri quadri nel centro di Mosca, insieme ai miei nonni materni. Nel 1977 il padre partecipa a una conferenza a Varsavia, in Polonia. Incontra colleghi da tutto il mondo e si intrattiene a lungo con i ricercatori provenienti da quel mondo occidentale che gli era sempre stato passato come il male assoluto. Capisce da solo che non è così e capisce in pochissimi istanti che per il figlio sarebbe di gran lunga meglio crescere in un paese che gli permetta di fare ricerca in modo libero, senza limiti. Al suo ritorno comunica la decisione alla famiglia. Sono molto grato ai miei genitori della scelta che hanno fatto, soprattutto perché in seguito ad essa hanno dovuto affrontare momenti molto difficili. Appena dopo aver inoltrato la richiesta del visto d'uscita dal paese, il padre e la madre di Sergey Brin vengono licenziati in tronco. Si devono adattare a fare lavori occasionali e temporanei per sbarcare il lunario, mentre la loro richiesta viene costantemente respinta per sempre più improbabili cavilli burocratici. Nel 1979, finalmente, essa viene accettata e la famiglia Brin vola negli Stati Uniti. Sergey, però, non dimenticherà mai le sue origini e le difficoltà affrontate dai suoi genitori in quegli anni. volta giunto negli States, Sergei completa il suo percorso di formazione. Frequenta la Eleanor Roosevelt High School a Greenbelt, nel Maryland. Poi si laurea in informatica alla University of Maryland e infine approda a Stanford per il dottorato in scienze informatiche. Il padre e la madre, nel frattempo assunta come ricercatrice alla NASA, lo supportano sempre e lo aiutano a non smarrire le proprie radici, aiutandolo ad esempio a non dimenticare il russo. Così Brin e Page si conoscono, si stimano da subito e iniziano a lavorare insieme al progetto di ricerca ideato da Page sull'indicizzazione delle pagine web. In altre parole, sui motori di ricerca. Eravamo entrambi due secchioni permalosi e poco socievoli. Tuttavia ci siamo piaciuti subito. Abbiamo iniziato a lavorare insieme e siamo diventati presto migliori amici. In ambito universitario, una pubblicazione assume importanza scientifica in base al numero di citazioni che essa riceve in altre pubblicazioni. Page e Brin, di fatto, applicano questo semplice principio all'indicizzazione delle pagine web. Quello che serve loro, però, è l'algoritmo giusto che permetta di velocizzare e di rendere automatico il processo di ricerca. È ormai il 1997, l'anno della sesta conferenza mondiale del web di Santa Clara, da cui siamo partiti. Centinaia di studiosi e di ricercatori da tutto il mondo, per lo più giovani. L'atmosfera è febbrile e stimolante. Si sente vibrare nell'aria la contagiosa fiducia nel progresso di chissà che è lì per tentare di cambiare il mondo. Brin e Page ascoltano con enorme attenzione ogni conferenza, ogni intervento, cercando di assorbire tutto ciò che potrebbe essere decisivo per la loro ricerca. Si divorano letteralmente ogni intervento, finché l'8 aprile del 1997 prende la parola un giovane ricercatore italiano. Prova 1-2, 1-2-3, prova. The quest for correct information on the web, Hyper Search Engines. Questo è il titolo dell'intervento pronunciato da quel giovane ricercatore. Mezz'ora circa, come per tutti i ricercatori ospitati in quella conferenza. Mezz'ora che Brin e Page si bevono tutta d'un fiato, sbalorditi, a bocca aperta. Ciò che hanno appena sentito è di fatto l'algoritmo che stavano cercando, la chiave di volta di tutta la loro ricerca. L'uomo che ha appena pronunciato quel discorso si chiama Massimo Marchiori. Massimo Marchiori. Troppo spesso si sente parlare a sproposito di ricerche made in Italy, di cervelli in fuga, di riforme all'università condotte magari con buone intenzioni, ma con l'handicap pesantissimo di tagli all'istruzione sempre più pesanti. La storia di Massimo Marchiori, professore associato all'Università di Padova, ha molto da insegnare a chi vuole sapere qualcosa in più sulla condizione della ricerca in Italia. La scopriremo insieme, tra poco. Destini incrociati. Larry Page e Sergey Brin, due giovani e brillanti dottorandi della prestigiosa Università di Stanford, California. A metà degli anni 90, i due iniziano a lavorare su un progetto ambizioso e affascinante, un motore di ricerca per poter rendere semplice ed efficace la navigazione in Internet. Si basano su un semplice principio, il valore accademico della citazione. In ambito universitario, più un testo viene citato da altri testi, più alto viene considerato il suo valore. Assecondando questa linea, Brin e Page cercano di trovare un algoritmo che possa in pochi secondi ordinare, su richiesta dell'utente, le pagine web. Nonostante il duro lavoro, nonostante i progressi, quell'algoritmo non si trova. I motori sono importantissimi per un semplice motivo, perché Internet è diventata il grande ricettacolo, il grande canestro pieno di tutta l'informazione che l'umanità man mano costantemente mette. Siamo in tanti, per cui c'è sempre più informazione. Questa informazione bisogna poi trovarla, è come avere una biblioteca enorme con troppi libri, e se non c'è un buon bibliotecario che ci sa suggerire dove sono i libri o un indice, è una biblioteca totalmente inutile, per cui è un aspetto veramente fondamentale, tant'è che era stato sottovalutato all'epoca. Mi ricordo attorno al 97, quando ho parlato per primo della possibilità che ci fossero motori di ricerca che poi influenzavano il modo in cui si accedeva all'informazione, illustri cattedratici dell'epoca mi hanno riso in faccia letteralmente, adesso suona ironico dirlo, dicendo: ma com'è possibile che un motore di ricerca risulti tanto importante da poter controllare, oppure insomma in un certo modo essere l'accesso del web? Sappiamo tutti poi com'è andata a finire, è il portale a cui tutti cominciano, da cui tutti cominciano l'accesso all'informazione. La voce che avete sentito appartiene al professor Massimo Marchiori. Chi è Massimo Marchiori? Beh, oggi è un professore associato dell'Università di Padova, amatissimo dai suoi studenti, cui si dedica anima e corpo, e che gli hanno addirittura dedicato un affollatissimo fan club su Facebook. Nel 1996 ha 26 anni ed è un brillante e intraprendente dottorando presso l'Ateneo Patavino. In quell'anno manda al Comitato Scientifico della Conferenza Mondiale del Web di Santa Clara una proposta per uno speech innovativo che, come avete sentito, riguarda un'idea pionieristica, motori di ricerca. L'idea viene accettata dagli organizzatori della conferenza, che lo fanno parlare davanti a illustri ricercatori e ambiziosi dottorandi di tutto il mondo. Tra di loro ci sono anche Larry Page e Sergey Brin. Sì, è vero, nel senso che questo già nell'ormai lontano 96, mi sento vecchio a dirlo, è praticamente il bello della ricerca. Cioè, avevo fatto un mini motore di ricerca ancora all'epoca all'Università di Padova, per cui è nato proprio qui in Italia e non all'estero. Poi l'ho presentato all'estero, negli Stati Uniti, alla conferenza mondiale di internet e del web. Lì c'era Larry Page, uno dei due inventori di Google. Ha visto subito, ha capito, come tutti quelli presenti, che la cosa sembrava molto interessante, perché creava motore di ricerca molto, molto migliore di quello che era prima. Mi ha tallonato per tutta la durata di questa conferenza. Abbiamo discusso sui vari punti e poi praticamente l'anno dopo, correttamente citandomi, hanno fatto Google, che tutti adesso conoscono. Succede proprio questo. Larry Page e Sergey Brin ascoltano increduli l'idea di Marchiori, chiamata Hypersearch, e che di fatto è proprio quell'algoritmo che stavano cercando. Lo assediano, lo tallonano per tutta la durata della conferenza. Si confrontano, si scambiano idee, perché è così che dovrebbe funzionare la ricerca. Alla fine Brin e Page si congedano, dicendo che avrebbero provato a fare qualcosa a partire dall'algoritmo di Marchiori. Quel qualcosa si chiama PageRank, un nuovo algoritmo. Quel qualcosa si chiama Google. Google era la parola inventata dal nipotino del grande matematico Edward Kasner nel 1938 per indicare un numero gigantesco. La volontà di Page e Brin è di indicizzare un numero impressionante di informazioni. Di qui per Brin e Page l'idea di usare il termine Google. Il termine viene incrociato attraverso un gioco di parole con la parola inglese Googles, binocolo, appunto perché il motore permette di guardare da vicino la rete. La parola Google, inoltre, richiama, secondo alcuni, una fantomatica formula magica riguardo alla cui derivazione esistono tesi opposte e contrastanti. La più comune la attribuisce a una popolazione africana che la usava come buon auspicio per la caccia. Noi di Google siamo convinti che non tutte le pagine web nascano uguali. Gli uomini nascono uguali, non le pagine web. Molto correttamente, Brin e Page riconoscono da subito, e continueranno a farlo, l'importanza di Marchiori per la nascita del loro progetto e del loro business. Del resto, il ricercatore italiano sembra condividere con i due ricercatori di Stanford la stessa urgenza di organizzare e rendere così più fruibile la quantità impressionante di informazioni disponibile sul web. Internet è un nuovo territorio bellissimo, però non è il paradiso. La più grossa illusione è che Internet sia un paradiso totale per cui tutti sono liberi e tutti possono fare quello che vogliono. La realtà è ben diversa. La realtà è che siccome internet è un media molto importante, come tutti i media ha cominciato ad avere attenzioni economiche, di formazione di opinione, di altro tipo, e quello che è successo è che essenzialmente è diventato molto più facile da controllare. Cioè il grande paradosso che abbiamo ora su internet e sul web è che c'è talmente tanta informazione che, come avevamo anche detto prima, bisogna avere per esempio un motore di ricerca o dei mezzi per accedervi. Se è come avere un grande elefante, se lo prendiamo per la proboscide riusciamo a controllarlo, fra virgolette. La stessa cosa con internet: se riusciamo a controllare questi punti focali di accesso all'informazione, riusciamo purtroppo a controllare il 90% anche più del web. Per cui potenzialmente è un ambiente libero, quello che conta veramente, purtroppo, come in tutti i media, è l'accesso all'informazione. L'accesso potenziale c'è su internet, è questo che lo rende diverso dai soliti media. L'accesso però di fatto è pur sempre limitato, come nel caso di giornali, televisioni o altro, ai nuovi media, alle nuove televisioni, quali possono essere i motori di ricerca o i grossi portali che contengono l'informazione. Dopo quell'incrocio fortunato del 1997 per Brin e Page e per Marchiori, la vita cambia completamente. Il 4 settembre del 1998 i due studenti fondano l'azienda, con sede in un garage a Menlo Park, vicino a Santa Clara. Dopo poche settimane assumono il primo dipendente, un amico e compagno di università, Craig Silverstein. Brin e Page abbandonano il percorso di dottorato per dedicarsi interamente anima e corpo alla loro creatura. In poco tempo Google diventa un colosso impressionante, sia sul piano strutturale che su quello commerciale. Prima arrivano ingenti finanziamenti da investitori privati che supportano la ricerca e lo sviluppo del motore di ricerca. Poi, dopo 5 anni di attività, ecco l'offerta pubblica iniziale, in seguito alla quale Google assume un valore di mercato di oltre 23 miliardi di dollari. L'azienda costruisce poi il Googleplex, il futuristico palazzo sede della società. Anche il nome della sede nasce da un gioco di parole. Googleplex, in matematica pura, significa 10 alla Google. Il numero, seguito da tanti zeri, inventato, come abbiamo detto prima, dal nipote di Edward Kessner. Ma è anche, naturalmente, una fusione dei termini Google e Complex, che significa edificio, palazzo. L'interno dell'edificio è arredato in modo originale, con lampade colorate, giganteschi palloni di gomma, divani rossi. All'interno della struttura si trovano anche numerosi servizi e luoghi di ritrovo per i dipendenti, come ad esempio ambulatori medici, bar e una sauna. Noi vogliamo mettere i nostri dipendenti nelle migliori condizioni di lavoro possibili. Per questo abbiamo inventato la regola del 20%. Tutti i dipendenti di Google sono incoraggiati a usare il 20% del loro orario lavorativo in progetti che li interessano. Grazie a questa regola sono nati servizi globali come Google News, l'algoritmo giornalista con cui devono fare i conti gli editori di giornali in tutto il mondo. Oggi viene ritenuto che Google utilizzi almeno 35 data center noti, più altri non conosciuti e altri di terze parti. La maggior parte dei data center è negli Stati Uniti, tra cui uno in South Carolina di 466 acri. Altri 12 si trovano in Europa, tra cui 3 in Germania, 2 in Olanda, uno in Belgio, Lituania e Svizzera, uno a Mosca, Londra e Parigi e uno a Milano. Lo sviluppo maggiore è attualmente in Asia, dove sono in allestimento alcuni grandi centri a Taiwan e in Malesia. Google utilizza un parco macchine indirizzate da più di 500 IP, che probabilmente puntano sulle singole unità di ricerca, costituite ciascuna da centinaia o migliaia di macchine. Plausibilmente possiede un numero complessivo di oltre 450.000 computer per processare dati, garantire contenuti, organizzare e gestire la propria rete, rispondere alle ricerche e catalogare il web. Grazie a questa enorme potenza di calcolo, Google è in grado di effettuare una ricerca su milioni di pagine web in alcuni millisecondi e di indicizzare un elevato numero di contenuti ogni giorno. Il fatto che Google sia il sito più visitato del web e il numero contemporaneo di richieste che arrivano da più utenti non rallentano l'efficienza di queste ricerche. Fin qui l'ascesa impressionante di Google. Tutto nasce, è bene non dimenticarlo, dall'algoritmo di Marchiori. Come cambia quindi la vita del ricercatore italiano? You walked into the room. I just had to love the face you wore was cool. You- Destini incrociati. Google, il sito più visitato al mondo. Tutti gli internauti che iniziano il proprio percorso nella rete partono dalla pagina bianca di Google. Anche il colosso di Mountain View, come viene ribattezzato oggi il motore di ricerca più importante al mondo, ha avuto un preciso punto di partenza. Si tratta dell'algoritmo Hypersearch, inventato da un ricercatore italiano, Massimo Marchiori, e presentato alla 6ª Conferenza Mondiale sul Web di Santa Clara nel 1997. Da quel momento, per due studenti di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, i fondatori di Google, la vita cambia. Per Massimo Marchiori, anche. Ma il matematico italiano si deve scontrare con l'ambiente non proprio accogliente e meritocratico dell'università italiana. A quel momento è accaduto praticamente niente, nel senso che io ho continuato i miei studi, poi ho finito gli studi qui, ho cercato di vincere un posto in Italia e mi sono scontrato con la realtà italiana. Non è facile vincere. Io sono figlio di ferroviere, mio papà guidava i treni, non era barone universitario, per cui non sono riuscito a vincere un concorso in Italia e sono dovuto scappare all'estero. Ovviamente all'estero un talento come quello di Marchiori, con un biglietto da visita così importante, non passa certo inosservato. Sì, lì diciamo, prima sono andato al MIT non per lavorare su internet e sul web, per lavorare su altre cose, però il web e internet sono belli perché sono a contatto con la gente, no? Sono una tecnologia che tocca tutte le persone, insomma. Per cui mi piaceva. L'inventore del web lavorava al piano sopra, dove ero io che lavoravo su altre cose, ho incontrato uno di quelli che lavoravano lì e mi hanno, insomma, parlando del più e del meno, mi ha detto: ma sai che c'è delle idee veramente belle, dovresti venire a lavorare da noi. Allora mi ha portato dal suo capo, il suo capo lo stesso ha detto: ah, ma che belle idee, io ero un emerito sconosciuto per sì. loro, cosa che probabilmente in Italia, diciamo, sarebbe stata un po' più anomala, difficile, ecco. Come esatto. L'onda dei ragazzi. Infatti. Anche lui ha detto: ma che bella idea, mi ha portato dal vice direttore, il vice direttore ha detto: una bellissima idea, però chi crea i posti qui è l'inventore del web, Tim Berners-Lee, solo lui può creare questi posti. Per cui il giorno prima di Natale, ero già con le valigie in mano, sono andato dalla divinità, colui che ha creato il web, no? E abbiamo parlato, lui mi ha detto: ma sai che hai veramente delle bellissime idee, però mi dispiace, non abbiamo posti disponibili. Poi ha battuto il pugno sul tavolo e ha detto: però per te ne creo uno io ora, benvenuto. È stato il più bel Natale lo credo. Della mia vita. Oggi però Marchiori è professore associato all'Università di Padova, anche se la definizione professore non gli piace granché. Io sono professore associato, però posso dire che la parola professore sì, non mi piace, perché sembrano... È la scelta un'altra. Sembrano illustrini tipo sergente, tenente, colonnello, no? Allora, uno che entra come ricercatore fa meno ricerca di uno che è professore, no? Semplicemente c'ha qualche anno in meno, però... Ci sono moltissimi. Come la devo chiamare io? Mi chiami matematico, informatico, qualsiasi cosa, insomma. Cioè, ma i professori, cioè, sono illustrini, secondo me. Uno che entra come ricercatore, dopo anni di studi, precariato, sacrifici, non si può chiamare professore. Perché non ha il titolino. Allora, che senso ha questa cosa? Quando uno entra, negli Stati Uniti li chiamano scienziati, uno entra dentro ed è scienziato. Per cui niente lustrini, quello che conta è quello che uno fa, non quanti lustrini ha sulle spalle. Ha ragione. Infatti mi ricordo, mi sembrava un po' strano passare quelle ore a studiare il latino, perché allena la mente a mettere tutto in prospettiva. Ma io adesso non so calcolare l'IVA. Io volevo sapere la vera storia della gente. Come si fa a vivere, cosa serve veramente? Perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare è insegnare a imparare. Perché Marchiori ha deciso di tornare in Italia? Quando è successo? Facciamo un po' d'ordine. Il matematico padovano capisce prima e meglio degli altri la svolta che i motori di ricerca quantitativi porteranno nel mondo della rete. Inventa l'algoritmo Hypersearch alla base di Google. Non lo brevetta perché, come dice, lo scopo della mia vita non è fare soldi, ma contribuire a un progresso che i brevetti solitamente limitano. Poi viene convocato da niente meno che Tim Berners-Lee, l'inventore del World Wide Web, a lavorare su importanti progetti di sviluppo all'MIT di Boston. Arriva a guadagnare 9 o 10 mila dollari al mese e all'apice del successo come ricercatore. Poi però nel 2000 decide di tornare in Italia, di guadagnare un quinto di quello che guadagnava negli Stati Uniti. Nel 2000 Padova gli offre un posto da ricercatore a 900 euro al mese. Voglio dire, uno dice, vabbè, stando all'estero ti dà un sacco di soldi in più, però voglio dire, non siamo fatti per vivere solamente per i soldi, cioè forse ci sono cose un po' più importanti nella vita, no? Che non solo i soldi, accumulare soldi. La società è fatta così, cioè se ognuno pensa a se stesso la società crolla e non esiste più. Il suo cuore batteva per l'Italia evidentemente, cuore intendo amore per il paese. La passione, la ricerca, gli studenti, io sono nato in Italia, ho avuto professori italiani, perché devo scappare all'estero quando la mia casa è qui e il contributo che posso darlo qui. Non mi sono pentito, però tutti mi dicono ma perché sei tornato? Ma se tutti si vede che dicono, l'università sta andando male, per cui insomma qualche dubbio, sono umano anch'io, qualche dubbio ogni tanto mi torna, però insomma è una scelta che ho fatto e sono felice, devo dire. La parabola di Massimo Marchiori è assolutamente esemplare di tante cose. Di come anche in Italia esistano giovani ricercatori e studiosi brillanti e meritevoli. Di come in Italia però la situazione dell'università sia assolutamente drammatica. Io ricevo 1.000 euro l'anno e qui si vede che c'è qualcosa che non va, perché con 1.000 euro l'anno di fondi di ricerca, no? Come si va a fare il Google 3 italiano oppure progetti seri? Con 1.000 euro l'anno me ne vado negli Stati Uniti, bevo un caffè e torno indietro, per cui non è che si possa fare tanta ricerca, e come me tanti altri, perché i fondi sono dati a pioggia, no? C'è chi non fa assolutamente nulla e i suoi 1.000 euro li prende, e chi ha bisogno di fare delle cose concrete e con 1.000 euro no. Massimo Marchiori è per la comunità scientifica l'uomo che ha permesso l'invenzione di Google, come i suoi stessi fondatori hanno spesso ricordato. Al di là di sbandierate riforme, l'università italiana sembra incapace di valorizzare pienamente talenti e cervelli come il suo. Alla prestigiosa Scuola di Studi Avanzati di Trieste, Massimo Marchiori, il 24 gennaio del 2008, tiene una bellissima lezione sul Web 2.0 al Master di Comunicazione della Scienza. Il vice direttore del Master, Fabio Pagan, lo presenta così: l'unico professore in Italia con un fan club creato dagli studenti. Un biglietto da visita più significativo di questo, per un docente, non potrebbe esistere. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.